Tendimi le mani, andiamo, vieni vicino. Camminare da soli non è mai facile. Tutta la superficie, la cicatrice e tutto quello che consuma. Rimane la radice, il silenzio passato ad ascoltare le ore del tuo cuore dentro il mio. Per ore, ore e ore, senza fare l'amore. Solo un pensiero di te soggiace nella mia mente. Tutto indifferente, mente parla di tutto quanto. Io rimango muto, solo ad ascoltare il vento del ritorno, il vento di un bisogno, e tutto quanto muto, sembra dire un saluto, presente, dico, a me stesso, nel mondo, senza sospetto, nulla alcuno, vorrei soltanto essere meno digiuno, essere sempre più amato e poco odiato, forse fondamentale è la ragione del sentire. Vorrei trovarla e aprirti di nuovo il mio cuore, parole che rimangono da sole in una stanza a volare, parole leggere che sanno amare, eppure quando ti avvicino non riesco a parlare, non riesco a trovare la sostanza del mio cuore, parole mute, leggere, cadono nell'aria, perle di rugiada che poi fanno la nuova storia. Eppure rimango qui a seguire, ore e ore leggere, passate a leggere tutte quelle pagine fatte di sostanze, sogni, movimenti, tutte cose che rimangono nelle genti, nelle menti, e tutto quanto sembra poi ritornare, passato il temporale, rimane qui la stanza, sola come un piacere, rimango qui a vedere cose immutabili che ho fatto, cose che non rimarranno forse, ma nel mio cuore le ho fatte per dirti che quello che ho cercato è il senso del ritorno, che forse ho trovato la radice della sostanza del mio pensiero, è svanita, ora sono muto, senza vita, te.